Ad alta voce, leggere il Decamerone. Andreuccio da Perugia, seconda parte. Era il caldo grande. Per la qualcosa Andreuccio, veggendosi solo rimaso, subitamente si spogliò in farsetto e trassesi i panni di gamba e al capo del letto gli si pose, e richiedendo il naturale uso di dovere di porre il superfluo peso del ventre dove ciò si facesse, domandò quel fanciullo, il quale nell'uno dei canti della camera gli mostrò un uscio e disse: andate là entro. Andreuccio, dentro sicuramente passato, gli venne per ventura posto il piè sopra una tavola, la quale, dalla contrapposta parte, sconfitta dal travicello sopra il quale era, per la qual cosa capolevando questa tavola con lui insieme, se n'andò quindi giuso, e di tanto l'amò Iddio che niuno male si fece nella caduta, quantunque alquanto cadesse da alto, ma tutto della bruttura della quale il luogo era pieno si imbrattò. Il quale luogo, a ciò che meglio intendiate, e quello che è detto e ciò che segue, come stesse vi mostrerò, egli era in un chiassetto stretto, come spesso tra due case veggiamo, sopra due travicelli, tra l'una casa e l'altra posti, alcune tavole erano confitte e il luogo da seder posto, delle quali tavole, quella che con lui cadde era l'una. Ritrovandosi adunque laggiù nel chiassetto Andreuccio, dolente del caso, cominciò a chiamare il fanciullo, ma il fanciullo, come sentito l'ebbe cadere, così corse a dirlo alla donna, la quale, corsa alla sua camera, prestamente cercò se i suoi panni v'erano, e trovati i panni e con essi i denari, li quali esso, non fidandosi mattamente, sempre portava addosso, avendo quello a che ella di Palermo, sirocchia d'un perugin facendosi, aveva teso il lacciuolo, più di lui non curandosi, prestamente andò a chiuder l'uscio del quale egli era uscito quando cadde. Andreuccio, non rispondendogli il fanciullo, cominciò più forte a chiamare, ma ciò era niente, perché egli, già sospettando e tardi dello inganno cominciandosi a accorgere, salito sopra un muretto che quello chiassolino dalla strada chiudea e nella via disceso, all'uscio della casa, il quale egli molto ben riconobbe, se n'andò e quivi invano lungamente chiamò e molto il dimenò e percosse, di che egli, piagnendo come colui che chiara vedea la sua disavventura, cominciò a dire: ohimè lasso, in come piccol tempo ho io perduti 500 fiorini e una sorella. E dopo molte altre parole, da capo cominciò a batter l'uscio e a gridare, e tanto fece così che molti dei circumstanti vicini desti, non potendo la noia sofferire, si levarono. E una delle servigiali della donna, in vista tutta sonnocchiosa, fattasi alla finestra, proverbiosamente disse: oh, chi picchia laggiù? Oh, non mi conosci tu? Io sono Andreuccio, fratello di Madama Fiordaliso. Buono uomo! Se tu hai troppo bevuto, va, dormi e tornerai domattina. Io non so che Andreuccio né che ciance son quelle che tu di. Vai buona ora e lasciaci dormire, se ti piace. Come non sai che io mi dico? Certo, sì, sai. Ma seppur son così fatti i parentadi di Cicilia, che in sì piccol termine si dimentichino, rendimi almeno i panni miei, li quali lasciati vo, e io m'andrò volentier con Dio. Buono uomo, e mi par che tu sogni. E il dir questo e il tornarsi dentro e chiuder la finestra fu una cosa, di che Andreuccio, già certissimo dei suoi danni, quasi per doglia fu presso a convertire in rabbia la sua grande ira, e per ingiuria propose di rivolere quello che per parole riaver non potea. Perché da capo prese una gran pietra con troppo maggior colpi che prima fieramente cominciò a percuoter la porta, la qual cosa molti dei vicini avanti destisi e levatisi, credendo lui essere alcuno spiacevole, il quale queste parole fingesse per noiare quella buona femmina, recatosi a noia il picchiare il quale egli faceva, fattisi alle finestre, non altramenti che a un can forestier tutti quelli della contrada abbaiano addosso, cominciarono a dire: questa è una gran villania, venire a questa ora a casa le buone femmine e dire queste ciance. Va con Dio, buono uomo, lasciaci dormire se ti piace. E se tu hai nulla a far con lei, tornerai domani. E non ci dar questa seccaggine stanotte. Dalle quali parole, forse assicurato, uno che dentro dalla casa era, ruffiano della buona femmina, il quale egli né veduto né sentito avea, si fece alle finestre e con una voce grossa, orribile e fiera disse: ah! Ah! Chi è laggiù? Ah! Ah! Andreuccio, a quella voce levata la testa, vide uno il quale, per quel poco che comprender poté, mostrava di dover essere un gran bacalare, con una barba nera e folta al volto, e come se del letto o da alto sonno si levasse, sbadigliava e stropicciavasi gli occhi, a cui egli, non senza paura, rispose: io sono un fratello della donna di Guglielmo. Ma colui non aspettò che Andreuccio finisse la risposta, anzi, più rigido assai che prima, disse: io non so a che io mi tegno, che io non vengo laggiù, e dea di tante bastonate quante io ti venga a muovere. Asino fastidioso e ebriaco che tu devi essere, che questa notte non ci lascerai dormire per sole. E tornatosi dentro serrò la finestra. Alcuni dei vicini, che meglio conoscieno la condizione di colui, umilmente parlando a Andreuccio dissero: per Dio, buono uomo, vatti con Dio, non volere stanotte essere ucciso costì. Vattene per lo tuo migliore. Laonde Andreuccio, spaventato dalla voce di colui e dalla vista, e sospinto da conforti di coloro li quali gli pareva che da carità mossi parlassero, doloroso quanto mai alcun altro, e dei suoi denar disperato, verso quella parte onde il dì aveva la fanticella seguita, senza saper dove s'andasse, prese la via per tornarsi all'albergo. E a sé medesimo dispiacendo per lo puzzo che a lui di lui veniva, desideroso di volgersi al mare per lavarsi, si torse a man sinistra e su per una via chiamata la Ruga Catalana si mise, e verso l'alto della città andando, per ventura davanti si vide due che verso di lui con una lanterna in mano venieno, li quali, temendo non fosser della famiglia della corte o altri uomini a malfar disposti, per fuggirli in un casolare, il quale si vide vicino, pianamente ricoverò. Ma costoro, quasi come a quello proprio luogo inviati andassero, in quel medesimo casolare se ne entrarono. E quivi l'un di loro, scaricati certi ferramenti che in collo avea, con l'altro insieme gli incominciò a guardare varie cose sopra quelli ragionando. E mentre parlavano, disse l'uno: che vuol dire questo? Io sento il maggior puzzo che mai mi paresse sentire. E questo detto, alzata alquanto la lanterna, ebber veduto il cattivel d'Andreuccio e stupefatti domandare: chi è là? Andreuccio taceva, ma essi, avvicinatiglisi con lume, il domandarono che quivi così brutto facesse, alli quali Andreuccio ciò che avvenuto gli era narrò interamente. Costoro, immaginando dove ciò gli potesse essere avvenuto, dissero fra sé: veramente in casa lo scarabone buttafuoco fia stato questo. Buono uomo, come che tu abbi perduti i tuoi denari? Tu hai molto a lodare Dio che quel caso ti venne che tu cadesti, ne potesti poi in casa rientrare. Perciò che se caduto non fossi, vivi sicuro che come prima addormentato ti fossi, saresti stato ammazzato e co denari avresti la persona perduta. Ma che giova oggimai di piangere? Tu ne potresti così riavere un denaio come avere delle stelle del cielo. Ucciso ne potrai tu bene essere se colui sente che tu mai ne facci parola. E detto questo, consigliatisi alquanto, gli dissero: vedi, a noi è presa compassion di te, e perciò dove tu vogli con noi essere a fare alcuna cosa, la quale a fare andiamo, egli ci pare esser molto certi che in parte ti toccherà il valere di troppo più che perduto non hai. Andreuccio, siccome disperato, rispose che era presto. Era quel dì seppellito uno arcivescovo di Napoli, chiamato Messer Filippo Minutolo. Era stato seppellito con ricchissimi ornamenti e con un rubino in dito il quale valeva oltre a 500 fiorin d'oro, il quale costoro volevano andare a spogliare. E così a Andreuccio fecer veduto. Laonde Andreuccio, più cupido che consigliato, con loro si mise in via, e andando verso la chiesa maggiore, e Andreuccio, putendo forte, disse l'uno: non potremmo noi trovar modo che costui si lavasse un poco, dove che sia, che egli non putisse così fieramente? Sì, noi siamo qui presso a un pozzo, al quale suole sempre esser la carrucola e un gran secchione. Andiannela e laverenlo spacciatamente. Giunti a questo pozzo, trovarono che la fune v'era, ma il secchione n'era stato levato. perché insieme deliberarono di legarlo alla fune e di collarlo nel pozzo, egli laggiù si lavasse, e come lavato fosse, crollasse la fune e essi il tirerebbero suso. E così fecero. Avvenne che, avendo il costor nel pozzo collato, alcuni della famiglia della signoria, li quali, e per lo caldo e perché corsi eran dietro a alcuno, avendo sete, a quel pozzo venieno a bere, li quali, come quegli due videro, incontanente cominciarono a fuggire, li familiari che qui vi venivano a bere, non avendogli veduti. Essendo già nel fondo del pozzo Andreuccio lavato, dimenò la fune. Costoro, assetati, posti giù lor tavolacci e loro armi e lor gonnelle, cominciarono la fune a tirare, credendo a quella il secchione pien d'acqua essere appiccato. Come Andreuccio si vide alla sponda del pozzo vicino, così, lasciata la fune, con le mani si gittò sopra quella. La qualcosa, costor vedendo, da subita paura presi, senz'altro dir, lasciaron la fune e cominciarono quanto più poterono a fuggire. Di che Andreuccio si meravigliò forte. E se egli non si fosse bene attenuto, egli sarebbe infin nel fondo caduto, forse non senza suo gran danno o morte. Ma pure uscitone, e queste arme trovate, le quali egli sapeva che i suoi compagni non avean portate, ancora più si incominciò a maravigliare. Ma dubitando e non sapendo che, della sua fortuna dolendosi, senza alcuna cosa toccar quindi, deliberò di partirsi, e andava senza saper dove. Così andando, si venne scontrato in quei due suoi compagni, li quali a trarlo del pozzo venivano, e come il videro, maravigliandosi forte, il domandarono chi del pozzo l'avesse tratto. Andreuccio rispose che non sapea, e loro ordinatamente disse come era avvenuto e quello che trovato aveva fuori del pozzo. Di che costoro, avvisatisi come stato era, ridendo gli contarono perché s'eran fuggiti e chi stati eran coloro che su l'avean tirato. E senza più parole fare, essendo già mezzanotte, mandarono alla chiesa maggiore e in quella assai leggermente entrarono e furono all'arca, la quale era di marmo e molto grande, e con lor ferro il coperchio, che era gravissimo, sollevaron tanto quanto un uomo vi potesse entrare, e puntellaronlo. E fatto questo, cominciò l'uno a dire: chi entrerà dentro? Non io. Né io. Ma entrivi, Andreuccio. Questo? Non farò io. Come non v'enterrai? In fe di Dio, se tu non ventri, noi ti darem tante d'uno di questi pali di ferro sopra la testa, che noi ti farem cader morto. Andreuccio, temendo, ventrò, e entrandovi pensò seco. Costoro mi ci fanno entrare per ingannarmi. Perciò che come io avrò loro ogni cosa dato, mentre che io penerò a uscir dall'arca, essi se ne andranno per fatti loro, e io rimarrò senza cosa alcuna. E perciò s'avvisò di farsi innanzi tratto la parte sua, e ricordatosi del caro anello che aveva loro udito dire, come fu giù disceso, così di dito il trasse all'arcivescovo, e miselo a sé, e poi, dato il pasturale e la mitra e guanti, e spogliatolo infino alla camicia, ogni cosa diè loro, dicendo che più niente v'avea. Costoro, affermando che esservi doveva l'anello, gli dissero che cercasse per tutto, ma esso, rispondendo che non lo trovava e sembiante facendo di cercarne, alquanto gli tenne in aspettare. Costoro, che d'altra parte eran sì come lui maliziosi, dicendo pur che ben cercasse, preso tempo, tirarono via il puntello che il coperchio dell'arca sostenea e fuggendosi, lui dentro dall'arca lasciaron racchiuso. La qualcosa sentendo Andreuccio, quale egli allor divenisse ciascun se lo può pensare. Egli tentò più volte e col capo e con le spalle se alzare potesse il coperchio, ma invano si faticava, perché da grave dolor vinto, venendo meno, cadde sopra il morto corpo dell'arcivescovo. E chi allora veduti gli avesse, malagevolmente avrebbe conosciuto chi più si fosse morto, o l'arcivescovo o egli. Ma poi che in sé fu ritornato, dirottissimamente cominciò a piangere, veggendosi quivi senza dubbio all'un dei due fini dover pervenire. O in quella arca, non venendovi alcuni più a aprirla, di fame e di puzzo tra vermini del morto corpo convenirlo morire, o vegnendovi alcuni e trovandovi lui dentro, siccome ladro dover essere appiccato. E in così fatti pensieri e doloroso molto stando, sentì per la chiesa andar genti e parlare molte persone, le quali, siccome egli avvisava, quello andavano a fare che esso coi suoi compagni avevano già fatto, di che la paura gli crebbe forte. Ma poiché costoro ebbero l'arca aperta e puntellata, in quistion caddero chi vi dovesse entrare, e niuno il voleva fare. Pur dopo lunga tencione, un prete disse: «Che paura avete voi? Credete voi che egli vi manuchi? Gli morti non mangian gli uomini. Io v'entrerò dentro. Io!» E così detto, posto il petto sopra l'orlo dell'arca, volse il capo in fuori e dentro mandò le gambe per doversi giuso calare. Andreuccio, questo vedendo, in piè levatosi, prese il prete per l'una delle gambe e fe sembiante di volerlo giù tirare. La qualcosa sentendo, il prete mise uno strido grandissimo e presto dall'arca si gittò fuori. Dalla qualcosa tutti gli altri spaventati, lasciata l'arca aperta, non altramente a fuggir cominciarono che se da 100 miglia diavoli fossero perseguitati. La qualcosa veggendo Andreuccio, lieto oltre a quello che sperava, subito si gittò fuori e per quella via onde era venuto se ne uscì dalla chiesa. E già avvicinandosi al giorno, con quello anello in dito, andando all'avventura, pervenne alla marina e quindi al suo albergo si abbatté, dove i suoi compagni e l'albergatore trovò tutta la notte stati in sollecitudine dei fatti suoi. A quali ciò che avvenuto gli era raccontato parve, per lo consiglio dell'oste, loro che costui incontanente si dovesse di Napoli partire. La qualcosa egli fece prestamente e a Perugia tornossi, avendo il suo investito in uno anello dove, per comperare cavalli, era andato. Glossario. Guardarono che quivi così brutto facesse, alli quali Andreuccio ciò... Brutto. Brutto va inteso nel senso di sporco, lordo. Si ricordi il verso di Dante nel canto 8° dell'Inferno. Ma tu chi sei, che si sei fatto brutto? Veramente in casa lo scarabone buttafuoco fia stato questo. Scarabone. Il termine indica persona, capo malavitoso. Era l'appellativo usato in Sicilia e a Napoli nel 200 e nel 300. Deriva dal latino medievale scarabones e a sua volta da crabronem, ovvero calabrone. Potresti così riavere un denaio come avere delle stelle del cielo. Un denaio. È la dodicesima parte di un soldo. Costoro, assetati, posti giù lor tavolacci e loro armi e lor gonnelle, cominciarono la fune a tirare. La frase vuol dire deposti i loro scudi di legno e le loro armi e le loro tuniche. Le gonnelle erano tuniche lunghe e serrate ai fianchi da una cintura di cuoio. Leggermente entrarono e furono all'arca, la quale era di marmo e molto grande. All'arca. L'arca era un sepolcro, un sarcofago monumentale. E perciò s'avvisò di farsi innanzi tratto la parte sua. Innanzi tratto è locuzione che significa anzitutto, per prima cosa. Doveva fare, pur dopo lunga tencione, un prete disse. Tencione è la forma toscanizzata di tenzone, vuol dire contrasto, disputa. Nella rassegna dialettale che Dante fa nel De Vulgari Eloquentia durante la sua vana ricerca di un volgare illustre italiano, anche il volgare fiorentino, come è noto, è condannato senza possibilità d'appello. L'esempio che Dante cita della lingua della sua città è manichiamo, introque che noi non facciamo altro, cioè mangiamo che noi frattanto non facciamo altro, con quel verbo manicare collocato in posizione iniziale, dunque forte. La lingua antica, decaduto il classico esse, edere, che era stato sostituito già nel latino volgare, o da comedere, o dal più espressivo manducare, presentava un ventaglio assai ampio di forme concorrenti, non troppo differenziate dal punto di vista semantico le une dalle altre. Quelle indigene, manducare, manucare, mandicare e manicare, e quella di derivazione francese mangiare, che si è poi imposta sulle altre. Mi pare molto significativo che in una stessa pagina di questa novella ne troviamo accostate due diverse, manuchi e mangian, in bocca allo stesso personaggio. E il caso non è isolato. Nella novella 10 della prima giornata incontriamo in sequenza mangiare e manicare. Dunque, nel lessico del Boccaccio c'erano almeno tre scelte. Manicare, coi suoi derivati manicatore e manicaretto, manucare e il più comune mangiare, disponibili per ogni desiderato effetto di variazio o di sfumatura semantica. Ad alta voce. Leggere il Decamerone. Regia di Diego Marras. A cura di Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it.